Perfetto giorno di Simone Spezia. Siria e russi colpiscono un ospedale di Medici Senza Frontiere, circa 10 le vittime. Mosca contro la Turchia, sostiene i terroristi. Giulio Regeni sarebbe stato tradito, i suoi report sulle opposizioni intercettati dai servizi egiziani. Il Cairo smentisce che sia stato arrestato. Umiliati e picchiati in un centro per disabili in Sardegna, sospesi 14 operatori, 36 le vittime delle violenze. Giornata positiva in borsa, Milano guadagna oltre il 4%, bene tutti i bancari, e sul FTSE MIB non ci sono titoli negativi, Tokyo chiude con un rialzo del 7%. Scontro sulle pensioni di reversibilità, il governo ipotizza una razionalizzazione, ma arriva il muro della CGIL, di un pezzo del PD e del nuovo centrodestra. Il caso della fuga dei due detenuti da Rebibbia, sbarre segate, lenzuola come corda, è la seconda volta che avviene in quel carcere, l'allarme dei sindacati di polizia penitenziaria sulle risorse. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono sempre i soliti, effettogiorno@radio24.it per scriverci e il 349-238-6666, tanto per gli sms quanto per i messaggi su WhatsApp. In apertura dunque parliamo di questioni internazionali, parliamo di Siria, la tensione resta altissima intorno a queste vicende dopo la serie di attacchi lanciati dalla Turchia contro i curdi. Oggi tornano ad intervenire tanto la Russia quanto la stessa Ankara. Dunque sentiamo. A distanza di qualche ora, la telefonata tra Obama e Putin, partita dalla Casa Bianca, cede parte della sua intensità ai fatti. Il ministro degli esteri russo ha dichiarato che Mosca continuerà a bombardare la zona che circonda Aleppo, anche se si dovesse arrivare a un accordo sul cessate il fuoco. Bombardamenti che si susseguono, centrando anche obiettivi civili. Stamattina l'aviazione russa ha colpito e distrutto un ospedale gestito da Medici Senza Frontiere nella provincia di Idlib. Non si hanno notizie di molti membri dello staff. Ad Azaz, a nord di Aleppo, un attacco aereo dei governativi ha centrato una clinica, qui i morti sarebbero 14. Un eventuale invio di truppe di terra rischia di far diventare infinito il conflitto, ha detto il premier russo Medvedev. Non intendiamo restare in Siria per sempre. Siamo lì per compiere una missione limitata e specifica che è legata alla protezione dei nostri interessi nazionali. Interessi che confliggono con quelli turchi. Bombardando il territorio siriano, Ankara sostiene il terrorismo, questa l'accusa di Mosca. La Turchia risponde, ancora una volta, ricordando che non lascerà in mano curda i territori al confine. La tregua, concordata a Monaco giovedì scorso, dovrebbe scattare il 19. Nei prossimi giorni dovrebbero aprirsi i corridoi umanitari, sempre che il regime di Assad conceda il via libera. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per restare in luoghi nei quali l'ISIS agisce, è stata varata la lista dei ministri del governo di unità nazionale libica da sottoporre alla fiducia del Parlamento di Tobruk. Lo ha annunciato questa mattina l'inviato dell'ONU per la Libia, Martin Kobler, e vari media libici, quali precisano che l'esecutivo è formato da 18 elementi. Nessun cambiamento per difesa e interno, un nome nuovo per gli esteri. Di questo, come di Siria, torneremo a parlare più avanti. Lo faremo con Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, per cercare di avere un quadro. Siamo adesso alla vicenda di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo. La pista che prende sempre più corpo è quella dell'azione degli apparati di sicurezza egiziani. L'Egitto smentisce tutto. Il Ministero dell'Interno del Cairo decide di diffondere un comunicato ufficiale per negare che dietro la morte di Giulio Regeni ci siano i loro apparati di intelligence. Ma è proprio in questa direzione che sembrano condurre i primi tasselli di questa inchiesta, e d'altra parte si fa fatica a ricordare ammissioni di questo genere da parte dei governi. Così tocca alla Farnesina ribadire che l'Italia non si accontenterà di versioni di comodo, perché è un intricato scenario di false indiscrezioni, depistaggi e di doppie verità quello che si sta ricostruendo tra il Cairo e Roma. Uno scenario dove Giulio potrebbe essere finito in una contesa tra apparati per via delle sue informazioni sulle attività dei sindacati. L'Università di Cambridge gli aveva chiesto un salto di qualità su questo lavoro, un racconto proprio dall'interno, e per questo la svolta sarà capire chi abbia ricevuto i report del ricercatore friulano e che uso poi ne abbiano fatto i suoi professori. La Procura di Roma prova a ricostruirlo attraverso il computer del giovane e i racconti del suo tutor al Cairo, ma la percezione è che, al di là della proclamata collaborazione dell'Egitto, nei fatti gli investigatori trovino laggiù solo ostacoli nel loro lavoro. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo alla cronaca italiana, iniziando da una notizia che è stata battuta pochi istanti fa dalle agenzie e riguarda un fatto avvenuto a Salerno, nell'istituto Genovesi Da Vinci. Siamo in una scuola, dunque uno studente di 16 anni è stato colpito con un coltello al collo e all'addome da un altro ragazzo durante un litigio nell'istituto. È stato portato in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il ferimento è avvenuto in un corridoio appunto dell'istituto. Subito dopo il fatto il ragazzo che ha coltellato l'altro ha lanciato il coltello di piccole dimensioni da un balcone, che è stato recuperato dalla polizia. E a pochi giorni dal caso di Grotta Ferrata, vicino a Roma, con gli arresti per i maltrattamenti in un centro per disabili, arriva un altro caso simile, questa volta dalla Sardegna. Sono state le telecamere nascoste, posizionate dopo una segnalazione, a svelare i maltrattamenti subiti dai pazienti della struttura di Decimo Mannu nel Cagliaritano. Maltrattamenti, percosse, lesioni personali, omissione di referto nei confronti degli ospiti, adulti affetti da gravi e croniche forme di disabilità psicofisica. Queste le accuse a carico di 14 operatori dell'AIAS, ai quali i carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno notificato la sospensione dal pubblico servizio per 6 mesi. A far partire le indagini sarebbe stato l'esposto presentato da un dipendente dell'AIAS. Tra i maltrattamenti evidenziati, il fatto che i pazienti, tra l'altro, venissero spogliati completamente e lavati insieme nello stesso bagno in totale promiscuità. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo è il quadro dalla cronaca, al quale aggiungiamo una vicenda che incrocia la cronaca giudiziaria e quella economica, perché questa mattina la Procura di Spoleto ha chiesto l'archiviazione dell'indagine a carico del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e di altre 7 persone per le vicende appunto della Banca Popolare di Spoleto. La richiesta di archiviazione appunto è stata inviata oggi al GIP, riguarda Visco e anche i commissari nominati dalla Banca d'Italia, ed era stata aperta sulla base di una denuncia presentata alla Procura di Spoleto da un centinaio di aderenti all'Aspo Credit, che è l'associazione che raccoglie circa 400 soci della Spoleto Credito e Servizi. Le ipotesi di reato erano corruzione, abuso d'ufficio e truffa, ma appunto il PM al momento ha chiesto l'archiviazione. Andiamo da qua alla cronaca economica e finanziaria, innanzitutto con un breve aggiornamento sui mercati. Nella giornata di oggi le borse europee sono partite letteralmente di scatto e stanno rafforzando il loro andamento positivo in questa giornata. A Milano il FTSE MIB guadagna il 4,17%, il FTSE Share il 4,14%, tutto questo dopo che Tokyo ha chiuso con un balzo del 7,16%, positivi praticamente tutti i bancari. Il Banco Popolare guadagna l'8,9%, Monte dei Paschi l'8,8%, Unipol l'8,6% e bene anche Anima più 7,7%, Jux Net-a-Porter più 7,7%. Di questo torneremo come sempre a parlare più avanti alle 13:30 nel consueto appuntamento con i colleghi di Radio Core, Il Sole 24 Ore. Veniamo adesso invece alle vicende che riguardano la politica economica italiana, per parlare innanzitutto dell'ipotesi di modifica alla disciplina che riguarda le pensioni di reversibilità, ossia i trattamenti previdenziali che passano agli eredi del titolare quando questi muore. Nel DDL per il contrasto alla povertà varato dall'esecutivo si prevedono delle modifiche, i cui confini non sono ancora chiari e che già stanno sollevando polemiche. Sentiamo. Se ci saranno razionalizzazioni, saranno solo per evitare sprechi e duplicazioni, non per fare cassa in una guerra tra poveri, e qualsiasi intervento varrà solo sulle pensioni future, non su quelle attuali. Arriva in tarda serata la replica di Palazzo Chigi sulle voci di un possibile taglio delle pensioni di reversibilità, una precisazione che però non basta a far placare le polemiche. Tutto nasce dall'arrivo in Commissione Lavoro della Camera della delega del Governo sul sostegno alla povertà. Il tetto prevede di riformare i criteri di reddito o di patrimonio che permettono l'accesso a misure come appunto quella delle pensioni di reversibilità, in modo da liberare risorse da destinare meno abbienti. L'ipotesi è quella di legare la reversibilità alla parte dell'ISEE che valuta il reddito, e dunque non ci si baserebbe più sui contributi versati, ma sullo stato di bisogno dei familiari, il che secondo i sindacati potrebbe limitare fortemente il numero delle pensioni, permettendo l'erogazione solo a chi abbia un reddito molto basso. E intanto il tema continua a far discutere. Un governo che fa cassa sui morti mi fa schifo, dice il leader della Lega Salvini, mentre per il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Damiano, la previdenza non può essere considerata una mucca da mungere ad ogni occasione. Per quello del Senato Sacconi è paradossale ipotizzare tagli alla reversibilità mentre si vuole l'ampliamento per le coppie gay. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ci sono anche i dati di questa mattina diffusi dall'INPS sulle domande di disoccupazione che nel 2015 sono state nel complesso poco più di 2 milioni e risultano in calo del 15,9% rispetto all'anno precedente. Quanto emerge appunto dalle tabelle, nel solo mese di dicembre sono state in totale 143.817, il 33,7% in meno rispetto al mese di dicembre 2014. E altri dati sono quelli diffusi questa mattina dalla Banca d'Italia sull'andamento del debito pubblico, un debito pubblico che risulta in crescita in dicembre rispetto al dicembre 2014 di 33,8 miliardi e in calo invece sul novembre 2015, quindi sul mese precedente, di 42,1 miliardi. E si parlava pochi istanti fa, parlando di pensioni di reversibilità, di coppie gay. Bene, l'altro tema di questa settimana è ovviamente ancora il DDL sulle unioni civili e i problemi che sta creando all'interno della maggioranza. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, tra due ore il vertice decisivo del PD a Palazzo Madama per decidere la libertà di voto sugli emendamenti al disegno di legge sulle unioni civili. Ci sarà anche il ministro Maria Elena Boschi, che siederà attorno al tavolo con il vice segretario del PD Lorenzo Guerini, il capogruppo in Senato Luigi Zanda e l'autore del super canguro Andrea Marcucci. La tagliola per la valanga di emendamenti presentati dalla Lega. Il PD è deciso ad usare il super canguro, visto che il patto con la Lega è saltato, perché molti degli emendamenti che il carroccio lascerebbe sul tavolo di fatto potrebbero impedire il cammino della legge. Altro problema è lo stralcio della stepchild adoption, chiesto di nuovo ieri da Angelino Alfano, che auspica un patto trasversale per far decadere il capitolo adozioni. Ma qui il premier Matteo Renzi se la deve vedere anche con la sinistra Dem, perché Gianni Cuperlo già risponde al leader del nuovo centrodestra: il disegno di legge Cirinna è già una mediazione, non c'è nulla di scandaloso se attorno al DDL ci sarà una maggioranza più ampia o anche diversa da quella che sostiene il governo. Per il momento è tutto, a te Simone. E grazie alla nostra Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. A chiudere questa prima parte della trasmissione, il nostro Carlo Genta in studio per farci due chiacchiere su questo fine settimana di campionato. Carlo, ciao, eccoci. Ciao Simone, allora, è importante che ha mosso moltissimo la classifica. C'è sorpasso al vertice con la Juventus che sabato sera ha vinto il big match con il Napoli, nel finale con un po' di fortuna, ma con la solita gara solidissima. E poi ieri sera c'era lo spareggio, invece, un faccia a faccia per il quarto posto, per il terzo posto. C'era Fiorentina-Inter, con l'Inter che era in vantaggio e alla fine si è arresa, anche qui a un gol nel finale segnato da Babacar. Quindi un Inter in rottura prolungata che è ora stata scavalcata dalla Roma, che aveva a suo tempo vinto con il Carpi nell'anticipo degli anticipi. E anche il Milan si avvicina perché batte il Genoa e quindi si porta due sole lunghezze dall'Inter, situazione molto fluida per la corsa al terzo posto, ma si muove anche in coda alla classifica perché il Frosinone spariglia le carte vincendo ad Empoli e mettendo adesso una gran paura addosso alle due genovesi, che sono ormai nel mirino del Frosinone. Il Genoa 25 punti contro i 22 dei frosinati, la Sampdoria pure. C'è anche il Palermo a 26, Palermo che oggi ha cambiato l'ennesimo allenatore, perso il conto dei cambi in panchina del Palermo, porta girevole davanti a quella panchina, è tornato l'allenatore che ha iniziato, e cioè Giuseppe Iachini. Sinceramente non ricordo tutti gli allenatori del Palermo, però Palermo con 26 punti certo tranquillo non può stare. Decisamente no, e insomma vedremo se Iachini durerà fino a fine campionato. Beh, io forse suppongo di sì, insomma a questo punto... mancanza totale di altri candidati, a meno che Zamparini non decida di andare lui stesso in panchina. Dimentichiamo che siamo alla vigilia nella settimana della ripresa delle coppe. La Roma aspetta il Real Madrid. Un Real Madrid che ha vinto, ma non sembra stare benissimo, e che ha anche qualche assenza, e poi riprende l'Europa League con Napoli, Fiorentina e Lazio, che sono tutte e tre qualificate per questa seconda fase. Allora vedremo cosa succederà. Intanto l'appuntamento ovviamente con Carlo Genta è alle 14 con tutti i convocati. Adesso c'è il traffico, sentiamo dunque cosa succede sulle strade. Poi ci ritroviamo subito dopo per cercare di fare un po' di chiarezza e di capire a che cosa può portare questa doppia offensiva da una parte della Turchia sui curdi e dall'altra della Russia che prosegue i suoi bombardamenti sulla Siria, a che cosa può portare tutto questo anche a livello di tensioni internazionali. tribunali e poi parleremo di questa vicenda incredibile di Rebibbia, i due detenuti ieri fuggiti segando le sbarre e calandosi con le lenzuola come una corda, esattamente come in un cartone animato. Tra l'altro è la seconda volta che avviene a Rebibbia, perché era già avvenuto nel 2014. Ne parleremo col sottosegretario alla giustizia tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: in Siria i russi colpiscono un ospedale di Medici Senza Frontiere, sono circa 10 le vittime. Mosca intanto contro la Turchia, dice sostiene i terroristi. Giulio Regeni sarebbe stato tradito, i suoi report sulle opposizioni intercettati dai servizi egiziani, il Cairo smentisce che sia stato arrestato. Da oggi, notizie di pochi istanti fa, Beppe Grillo esce definitivamente ed ufficialmente dal simbolo del Movimento 5 Stelle e lo ha annunciato sul suo blog. Umiliati e picchiati in un centro per disabili in Sardegna, sospesi 14 operatori, 36 le vittime delle violenze. Una lite fra studenti a Salerno, un ragazzo di 16 anni accoltellato a scuola. E siamo con Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Ugo, buongiorno. Buongiorno. Allora, la giornata di oggi sul fronte siriano ci consegna quello che in parte raccontavamo anche nei titoli, i bombardamenti della Russia che proseguono, proseguono anche i colpi della Turchia, ma in questo caso contro i curdi, e uno scambio di accuse e di, come dire, di essere dei terroristi sia da una parte che dall'altra, cioè Mosca lo dice ai turchi, Ankara lo dice ai russi. Come potrebbe evolvere secondo te la situazione? Sembra sempre più evidente che dei protagonisti regionali non ci possiamo fidare, non ci si possa fidare, e gli unici sono Stati Uniti e Russia, che dovrebbero fare il loro mestiere, il cui mestiere appunto è quello di cercare di mettere ordine fra i loro alleati nei due fronti, di cercare di controllarli. Mi sembra che in questo momento soprattutto gli Stati Uniti dovrebbero impegnarsi un pochettino di più e i russi bombardare un pochettino di meno. Mi sembra che in questo momento siano i russi che facciano di meno il loro lavoro, perché bombardano molto di più. L'ultimo bombardamento all'ospedale di Medicine Sans Frontières è solo l'ultimo caso, ma da giorni oramai i russi bombardano ancora, ma anche i turchi lo fanno. Non ci si può più fidare appunto dei protagonisti regionali, perché ognuno, turchi, sauditi, iraniani, ognuno ha la sua agenda che è completamente diversa da quella che dovrebbe portare al processo di pace reale. Vedi i rischi di un'estensione del conflitto, Ugo? Beh sì, perché appunto mi sembra che Stati Uniti e Russia non riescano a fare quello che devono fare, appunto essere i veri mediatori. Poi è sempre difficile capire cosa stia succedendo sul campo, perché i turchi bombardano, sono accusati di aver bombardato il nord delle parti curde, però appunto loro smentiscono, e i russi sono accusati di continuare a bombardare, ma loro smentiscono. Però ecco, indubbiamente sì, se russi e americani non diventano veramente i mediatori onesti di questa vicenda, i protagonisti regionali stanno ampiamente dimostrando di non avere scrupoli, di essere pronti ad estendere il conflitto. E tu vedi una qualche possibilità in questo senso oppure no, Ugo? O ti sembra che, come dire, la distanza tra le parti in questo momento sia talmente ampia e le difficoltà che si registrano a Ginevra, dove si tenta di trovare un accordo per il futuro della Siria, sono talmente forti che è estremamente difficile? Le parti in causa, appunto, come dicevo, i protagonisti regionali non hanno alcuna intenzione di mediare, ma è nella tradizione appunto di quella regione nella quale si pratica l'esclusività, non l'inclusività politica, cioè io vinco e tu perdi, quando perdi finisci in galera o ti bombardiamo. Quindi loro sono totalmente, non hanno alcuna intenzione di arrivare a un compromesso. Se russi e americani non riescono a fare quello che devono fare, appunto, come dicevo, i grandi mediatori onesti, tutte e due insieme, beh allora sì, certo, credo, non scommetterei, perché su queste cose non si scommette, ma temo che sarebbe molto probabile un'estensione del conflitto. Un'ultima domanda, Ugo, spostando un attimo il fronte e spostandoci sulla Libia, dove questa mattina è stato presentato la nuova lista dei ministri che dovrà passare al vaglio del Parlamento di Tobruk. Ti sembra che si possa arrivare ad un accordo a questo punto e quindi un eventuale intervento internazionale, probabilmente anche con truppe italiane, oppure no? In Libia è molto più facile la possibilità di raggiungere un accordo, naturalmente resta sempre molto difficile, ma molto più facile riguardo alla Siria. E detto questo, anche lì ci troviamo di fronte esattamente allo stesso scenario, cioè qui ci sono i protagonisti regionali che mestano, mi riferisco all'Egitto, agli Emirati a favore di Tobruk, mi riferisco al Qatar e alla Turchia da parte a favore del governo di Tripoli. Finché appunto i protagonisti regionali non accettano appunto una mediazione, non accettano la nascita e la definizione di un quadro nazionale e regionale, l'ultimo accordo appunto raggiunto resta debole come quelli precedenti. Grazie a Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, per essere stato con noi e per le sue analisi. Abbiamo raggiunto Loris De Filippi, che è presidente di Medici Senza Frontiere in Italia. Buongiorno De Filippi, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Che notizie avete dal luogo dove è stato colpito il vostro ospedale? Beh, abbiamo ancora delle notizie frammentarie. Il capomissione, tra l'altro italiano, della zona fa fatica ovviamente a comunicare in questo momento per ragioni tecniche. Comunque la situazione è quella di un numero di vittime che sta crescendo e soprattutto di una struttura ospedaliera importante in quella zona, per più di 40.000 civili, completamente distrutta, non in grado più di operare in una zona dove servirebbe parecchio. Eravamo rimasti a 9 vittime per quanto riguarda il vostro ospedale, perché poi si sta facendo un po' di confusione in queste ore. Ne è stato colpito un altro di ospedale che non fa riferimento a Medici Senza Frontiere, diciamo, per un numero complessivo di vittime di 23. È il bilancio al momento, per quanto vi riguarda, è fermo a 9? Sì, per il momento è ferma 9, anche se sappiamo che c'è un certo numero di dispersi, stanno scavando per tentare di capire se sotto i detriti ci sono ancora delle vittime, quindi più tardi sapremo il conto purtroppo tragico finale. E vedevo dal comunicato che avete inviato poco fa che c'è una situazione alla quale lei ci accennava, che è letteralmente drammatica per un numero variabile tra i 40.000 e i 50.000 siriani che non hanno il minimo accesso all'assistenza medica. Ovviamente, come dire, non è il solo luogo dove questo avviene, però insomma concentriamoci su questo. Sì, è una zona particolarmente densa di combattimenti ed è una zona in cui effettivamente è importantissima la salute materno-infantile, quindi anche perché accedono a quella struttura persone che arrivano da altri distretti, quindi la mancanza di quella struttura creerà dei problemi enormi anche in futuro, insomma. Quindi è una cosa particolarmente grave. Si parla, perlomeno il nostro capomissione parla, di un possibile atto deliberato, perché l'aereo è stato visto sorvolare 2 volte sopra la struttura prima di sganciare appunto le bombe, e quindi la cosa diventa ancora più seria, ancora più grave. La ringrazio, grazie a Loris De Filippi, che è presidente di Medici Senza Frontiere in Italia. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro, buona giornata ovviamente per quanto possibile. Noi adesso ci fermiamo, andiamo tra un attimo a sentire cosa succede sui mercati. Come vi abbiamo detto, la giornata è ampiamente positiva e cercheremo di capire perché con i colleghi di Radio Corriere del Sole 24 Ore. Poi più avanti dovremo riuscire a collegarci, se ci risponde al telefono, col sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri, per parlare di questa incredibile evasione dare Bibbia. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Ecco i nostri titoli. In Siria i russi colpiscono un ospedale di Medici Senza Frontiere, 9 morti e alcuni dispersi. L'aereo, lo avete sentito, ce l'ha raccontato il presidente di Medici Senza Frontiere pochi istanti fa, ha sorvolato 2 volte la zona, quindi potrebbe essere un atto deliberato. Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo, sarebbe stato tradito, i suoi report sulle opposizioni sarebbero stati intercettati dai servizi egiziani. Da oggi Beppe Grillo esce definitivamente ed ufficialmente dal simbolo del Movimento 5 Stelle, lo ha annunciato poco fa dal suo blog. Umiliati e picchiati in un centro per disabili in Sardegna, sospesi 14 operatori, 36 le vittime delle violenze. Il caso della fuga dei 2 detenuti da Rebibbia, sbarre segate e lenzuola come corda, è la seconda volta che avviene in quel carcere. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo a parlare dunque di questa vicenda di cronaca che sta facendo molto discutere, che riguarda la fuga di 2 detenuti dal carcere romano di Rebibbia in un modo che qualcuno ha definito da cartone animato, ossia hanno segato le sbarre della cella e poi si sono calati con delle lenzuola. Si tratta di 2 detenuti romeni, uno condannato per omicidio, l'altro per rapina. Prendiamo tra l'altro dal al Messaggero oggi, che insomma era un caso che in realtà era già avvenuto sempre nella stessa Rebibbia. Ovviamente il tema qua è un parte sollevato dalla polizia, dalle associazioni della polizia penitenziaria, che dicono eravamo troppo pochi insomma là a controllare. Saluto Cosimo Maria Ferri, che è il sottosegretario della giustizia. Buongiorno sottosegretario, benvenuto. Ricambio i saluti a lei e a tutti coloro che ci ascoltano. Allora, com'è possibile una cosa di questo genere? Ma intanto voglio ribadire che le nostre carceri sono sicure, non esiste un problema sicurezza delle nostre carceri, lo dicono i dati, e in Europa sono considerate per la sicurezza carceri appunto tra le più sicure. Questo è un dato, perché se no da questo episodio grave certamente, e su cui dobbiamo porre i riflettori, anche capirne le cause, non dobbiamo però generalizzare e lanciare un messaggio. No, ma infatti nessuno generalizza, però il caso colpisce, no sottosegretario? Il caso colpisce, però voglio dire che intanto il governo nella ultima legge di stabilità ha investito per quanto riguarda la sicurezza delle carceri ancora una volta, sia per quanto riguarda i sistemi di allarme, cioè la tecnologia, le risorse, perché una delle cause anche per questo episodio di Rebibbia è stata anche la mancanza di un sistema d'allarme moderno, e questo è stato possibile anche perché nelle mura di cinta poi c'era un sistema d'allarme che nel caso in funzione non ha funzionato nel caso in questione, e quindi non ha segnalato l'uscita dal carcere alla centrale di sicurezza, che non è fortunatamente intervenuto. Altro tema è quello della carenza di personale. È vero che c'è una carenza di personale, ma è altrettanto vero che su questo stiamo lavorando, abbiamo destinato delle risorse per cercare anche di assumere nuovi agenti di polizia penitenziaria e investire anche nella sicurezza. E quanti, sottosegretario? Quanti sottosegretario? C'è un concorso già in atto, sì, e sono state rinviate le prove, ma dovrebbe essere fatto a breve, quindi un concorso è stato già bandito e siamo in attesa delle pubblicazioni delle date. E poi con queste nuove risorse della legge di stabilità cercheremo di fare anche altre, di trovare anche altre soluzioni, e comunque di pensare anche all'organico della polizia penitenziaria, a cui va il nostro ringraziamento per il lavoro egregio, serio e professionale che stanno facendo nelle carceri italiane per renderle sicure, insieme a tutto il mondo, gli educatori, a tutti gli altri protagonisti del mondo del sistema carcerario, che è complesso, e ci aggiungo anche il volontariato per il contributo importante che danno. Sottosegretario, abbiamo veramente un minuto. C'è però un tema da questo punto di vista che io trovo piuttosto interessante. L'altro giorno abbiamo avuto notizia del carcere di Sala Consilina, dove non ci sono più detenuti, è sostanzialmente chiuso e ci sono ancora 14 agenti. Una cosa simile avviene in un carcere, se non ho capito male, di Genova. Non è che si possono semplicemente spostare le risorse? Allora, noi stiamo, sia per quanto riguarda Sala Consilina che Savona, avendo deciso di chiudere due strutture, ricollocando il personale. Chiudendo delle strutture e dicendo comunque a dei lavoratori che esistono anche dei diritti, da domani qui non potete più lavorare, perché per efficienza e per risparmio di risorse noi vogliamo investire da un'altra parte, stiamo provvedendo, come è giusto che sia, con i lavoratori, in questo caso tutto il personale di queste due strutture, a dire: avete delle preferenze in qualche sede, cercare di concordare dove destinarli. Questo lo faremo in tempi brevi per garantire i diritti del lavoratore e nello stesso tempo acquisire delle nuove risorse in strutture dove mancano. Quindi noi le manderemo in strutture dove manca personale nel giro di poco tempo. Quindi io penso che questa questione, sia di Savona che di Sala Consilina, per il collocamento personale sarà fatto in tempi brevissimi. La ringrazio. Grazie a Cosimo Maria Ferri, sottosegretario alla giustizia. Noi ci fermiamo, c'è America 24, ci risentiamo alla fine per i saluti.